parola tifoso. Zingarelli, chi è affetto da tifo, che, e su questo è d'accordo anche il devoto Oli, relativo ai caratteri del tifo, stato tifoso è il quadro clinico della malattia. Questa è la mia vecchia gag, che evidentemente tanto gag non è, il tifo fa male e quindi il tifo innanzitutto è una patologia, poi vediamo. Invece nell'altra accezione lo Zingarelli dice chi fa il tifo per atleti o squadre sportive. Squadre sportive, il devoto Oli invece è per acceso sostenitore di una squadra o di un atleta, e già introduce quell'altro concetto, perché sulla parola sostenitore il devoto Oli scrive fautore convinto e impegnato di un'idea, mentre lo Zingarelli descrive in questa maniera che difende, sostenitore, che difende, propugna, e poi fa esempi, socio sostenitore, abbonamento da sostenitore, eccetera, eccetera. Terza possibilità, simpatizzante. Per lo Zingarelli, chi ha o dimostra affinità di opinioni, idee con un movimento, un partito, pur senza aderirvi, e questo mi sembra significativo, anche perché il devoto Oli è perfettamente d'accordo. Simpatizzante è chi dimostra una sostanziale affinità di vedute con un programma o un'ideologia, pur senza aderirvi apertamente. E quindi questo potrebbe essere, quello simpatizzante potrebbe essere una casistica. Adesso arriviamo alla traduzione poi di queste definizioni alte in quadrini, no? In quadrini di diritti TV. Appassionato, vabbè, per lo Zingarelli è chi prova passione, che esprime passione, indicazione espressiva che precisa un movimento, addirittura, ma qui è l'andante. Che è diverso, il devoto Oli che rivela una profonda partecipazione sul piano dei sentimenti. E infine il partecipante è chi partecipa a qualcosa, molto semplicemente per lo Zingarelli, per il devoto Oli è ciascuna delle persone che cooperano con la propria presenza allo svolgimento di una manifestazione collettiva.